Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. L'unica trasmissione che si occupa di questioni umane e non umane senza batter ciglio. Perché siamo tutti animali. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Dedichiamo a Tom Regan la puntata di questa settimana. È morto a 78 anni nella sua casa in North Carolina. Tom Regan, professore emerito di filosofia presso l'Università della North Carolina, uno dei maggiori teorici del movimento animalista mondiale, autore di tanti libri che sono stati fondamentali nella formazione di una generazione di animalisti. Ne citiamo solo alcuni: I diritti animali, La mia lotta per i diritti animali e Gabbie vuote. Nel settembre 2011 fu ospite del Festival di Filosofia di Modena in Italia e andammo ad ascoltare la sua relazione sui diritti degli animali. Fece vedere una serie di fotografie e immagini terribili, a riprova, per chi non lo sapesse ancora, della terribile condizione animale del mondo. Mostrò anche immagini strazianti di vitelli separati dalla madre, tenuti in stalli molto piccoli, e quella sera una veterinaria vestita di rosso si alzò in piedi, fogatissima, per contestargli che stava affermando il falso e che si doveva aggiornare, perché in Italia ai vitelli vengono assegnati spazi meno risicati di così. Fu ridicolo e grottesco il fatto che l'autore di Gabbie vuote dovesse ascoltare una contestazione del genere. Usiamo le parole di Gianluca Felicetti, presidente della LAV, che nella sua pagina Facebook ha scritto: «Se n'è andato via il corpo di Tom Regan, non i suoi insegnamenti che danno speranza a tutti i viventi». And every day I'm learning about you, the things that no one else sees. And the end comes too soon, like dreaming of angels. Leaving without them, like dreaming of angels. And leaving without them. E partiamo con le notizie di attualità. Cominciamo da una vicenda della recente cronaca italiana. Il 14 febbraio la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato a maggioranza PD, Nuovo Centrodestra e Forza Italia, contrari SEL, Gruppo Misto e Movimento 5 Stelle, l'emendamento De Biasi, Cattaneo e altri, che prevede 3 anni di proroga, inizialmente erano 5, per esperimenti su animali di droghe, alcol, tabacco e xenotrapianti. Particolarmente inutili per i malati e crudeli per gli animali è quanto rende noto un comunicato della LAV, Lega Italiana Antivivisezione. Su questo triste passo all'indietro, nel lungo cammino del superamento della vivisezione, sentiamo un commento di Gianluca Felicetti, presidente dell'associazione LAV. Il via libera era stato già dato dal governo e dal ministro della salute Lorenzin il 30 dicembre scorso, perché il governo, con una scadenza 1° gennaio 2017, 3 giorni prima, nel decreto legge mille proroghe, ha inserito un anno di proroga appunto per questo tipo di sperimentazioni. E questo ha dato modo poi, appunto qualche giorno fa, nella conversione in legge del decreto legge mille proroghe, a in particolare ai senatori di poter fare degli emendamenti, e ce n'erano anche per cancellare questo anno di proroga. Però hanno prevalso, con questa maggioranza trasversale, i fautori appunto di una maggiore proroga, che inizialmente si era chiesta a 5 o 7 anni e che poi è stata portata a 3. È stata una sconfitta di chi come noi si è battuto per l'entrata in vigore di queste pur limitate ma importanti restrizioni alla sperimentazione sugli animali. Le morali sono due. La prima è che fino a che chi dovrebbe finanziare e incentivare la sperimentazione senza animali, così come avviene in tanti paesi europei, negli Stati Uniti, dove sono concrete, forti le realtà della ricerca senza animali, e poi è lo stesso che dice non ci sono alternative, quindi dobbiamo fare questo tipo di dilazioni, di proroghe, è chiaro che è un elemento al quale noi dobbiamo riuscire a fare cortocircuito e non a essere presi in giro con questo tipo di sperimentazioni che servono solo ad alcuni per avere dei finanziamenti e continuare a pensare che potrà esistere, non so, la pasticca che risolverà i problemi della tossicodipendenza. L'altro aspetto importante è che dobbiamo fare una valutazione più generale rispetto a quello che è stato il recepimento restrittivo dell'Italia della direttiva europea, perché contemporaneamente Bruxelles ha chiesto per la seconda volta al governo italiano di operare una modifica molto più ampia del decreto legislativo 26 del 2014, e questo se il governo italiano, e sicuramente questo governo, come penso alla salute di Renzin, nei prossimi mesi noi siamo certi non ha la volontà di volersi opporre, sarà un ritorno a ciò che c'era prima anche del 2012, quindi anche per esempio della possibilità addirittura di poter tornare ad allevare cani, gatti e primati non umani per la sperimentazione nel nostro paese, e quindi sostanzialmente nonostante le condanne ottenute nel frattempo in primo e in secondo grado, di poter sostanzialmente far aprire allevamenti come grimille, allevamenti di bigolla come grimille. L'ultima considerazione riguarda il fatto che quando nel 2014, come l'AV ed altri, ottenemmo queste piccole ma significative restrizioni e da tutta Europa associazioni antisezioniste, animaliste ci hanno guardato come dei fari di avanzato progresso, laddove invece nei loro paesi non sono riusciti a ottenere nemmeno queste minime restrizioni, queste piccole restrizioni sono evidentemente, hanno fatto e fanno tanto male a chi difende la sperimentazione sugli animali a ogni costo, tanto da fargli fare, come nelle scorse settimane, una battaglia con i coltelli fra i denti, perché non sono addirittura disponibili a smetterla, a fare una sperimentazione sugli animali che numericamente è molto limitata, particolarmente ferata come quella che viene effettuata sugli animali per le sostanze d'abuso, quindi per alcol, droghe e tabacco. Quindi fino a che la politica non getterà, come si dice, il cuore oltre l'ostacolo, come ha fatto a livello europeo sui cosmetici qualche anno fa, imponendo alla ricerca di cambiare, e nei cosmetici la ricerca è cambiata e meglio, proprio grazie alla fissazione dello stop e test dei cosmetici sugli animali. Invece qui la politica non ha avuto coraggio e si è quindi riaccodata a quello che è invece una sperimentazione anacronistica superata, non etica, come quella sugli animali. Dal mondo. Nella scorsa puntata abbiamo sentito la psicologa Anna Maria Manzoni sulla strage di nutrie che sta avvenendo in Lombardia. E in Italia in questi giorni la questione degli abbattimenti dei lupi, animali intoccabili e protetti fino a poco tempo fa, è al centro delle cronache. Purtroppo la linea rossa che include ed esclude dai diritti, come abbiamo visto più volte, non sta mai ferma. La notizia che ci sembra grave, oltre che tristissima, è che l'Australia autorizza l'abbattimento di oltre 1 milione di canguri entro il 2017. Il piano governativo australiano di abbattimenti controllati, scrive il quotidiano britannico Independent, prevede di ridurre il numero dei marsupiali per evitare danni all'ambiente e alle altre specie animali. Una decisione che ha fatto infuriare gli ambientalisti che temono rischi per la sopravvivenza della specie. Gli abbattimenti controllati si andranno a sommare alle uccisioni illegali e agli incidenti automobilistici. Saranno milioni e milioni ogni anno gli esemplari uccisi, spiega così Brad Smith, segretario dell'associazione Upper Hunter Valley Wildlife Aid Group. In Australia le autorità danno ai proprietari terrieri tante etichette quante sono i canguri che sono autorizzati ad abbattere. Etichetta che deve essere attaccata alla carcassa per certificare che l'abbattimento sia stato legale. Tuttavia gli ambientalisti raccontano, spesso gli agricoltori scelgono semplicemente di sparare per dare i canguri in pasto ai loro cani. È un'attività illegale, ma se avviene sulla proprietà di un contadino, chi può accorgersene? Chi andrà a controllare? Ci sono persone che escono fuori di casa e sparano, uccidendone il numero che vogliono. Vi ricorda qualcosa? A noi sì. Lupi, cinghiali, nutrie, storni, colombi, topi, le specie bollabili come nocive sono potenzialmente tutte, inclusa quella umana, a seconda del colore della pelle, dello status economico, di salute e dei documenti che ha in tasca. Le questioni umane e non umane ci sembrano evidentemente collegate, ma per il momento mettere in relazione questi campi resta un tabù. Legata all'attualissima questione del lupo italiano è un'inchiesta iniziata fin dal 2013 e condotta dalla Procura della Repubblica di Modena, denominata Ave Lupo, che ha avuto come esito 229 sequestri di ibrido tra cane e lupo selvatico in tutta Italia. L'attività criminosa scoperta prevedeva sempre, secondo gli inquirenti, l'utilizzo di lupi che venivano prelevati illegalmente nella zona dei Carpazi, nei paesi scandinavi o in Nord America, per essere incrociati con cani dal lupo cecoslovacco, selezionati per ottenere un patrimonio genetico nuovo e capace di dare origine a esemplari di grande bellezza e più resistenti, in violazione dei disciplinari stabiliti dall'ENCI, l'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana. 54 le province interessate ed oltre 200 i proprietari coinvolti, cittadini che a vario titolo avevano acquistato i cani sino a 5.000 euro ad esemplare, 9 invece gli allevamenti messi sotto al microscopio a carico dei quali sono state messe le misure di sequestro. In totale 229 gli esemplari bloccati. In Italia è proibito l'accoppiamento di animali domestici con quelli selvatici ed è vietato detenere lupi fino alla quarta generazione in assenza delle prescritte autorizzazioni, poiché considerati specie protetta dalla CITES. A ciò si aggiunge, spiegano i carabinieri, il danno causato dal potenziale inquinamento genetico delle popolazioni di lupo selvatico italiano per la diffusione accidentale di alcuni di questi cani incrociati. Dunque, questa moda del cane di razza lupo cecoslovacco può avere dei retroscena a dir poco criminali, oltre naturalmente ad essere esecrabile, in quanto ogni acquisto, ogni adozione di un cucciolo di razza toglie una possibilità di riscatto ai cani detenuti ingiustamente nei canili. Se desiderate un'amica a quattro zampe o a tre, adottatelo dal canile della vostra città e non acquistatelo mai. L'amore non si compra. Notizione vegan musicale. Quest'estate, il 24 giugno, è prevista a Firenze l'unica tappa italiana del tour di Eddie Vedder, il mitico cantante vegano dei Pearl Jam, che sicuramente farà correre tante scatenate fans vegane e non come la nostra Francesca De Matteis. Per conquistarvi un biglietto preparatevi a rompere il salvadanaio, purché non sia quello fatto a porcellino. Perché dare una martellata a un salvadanaio fatto a porcellino, secondo noi, non è del tutto cruelty free. Non punto l'indice accusatorio, ma mettendomi in gioco in prima persona, spiego con calma ragioni di cui molte persone sono all'oscuro, sperando di contribuire alla diffusione della scelta veg. Autore, regista e interprete del monologo La carne è debole, Giuseppe Lanino sta girando l'Italia dal 2015 con il suo spettacolo, un testo che spiega le ragioni di una scelta spesso trascurata per mancanza di informazioni, per abitudine o per rassegnazione all'esistente. L'associazione LAV ha partecipato alla produzione dello spettacolo e abbina a questo la promozione delle sue attività. Abbiamo raccolto un'intervista durante la tappa fiorentina dello spettacolo La carne è debole. Ciao a tutti, io sono appunto nato a Palermo, mi sono trasferito a Milano a 18 anni per l'università, per veterinaria, e durante il percorso di studi universitari poi invece sono entrato in accademia a Milano, accademia teatrale, l'Accademia dei Filodrammatici. Poi ho portato per un qualche anno i due mondi insieme, quindi continuavo a studiare, già lavoravo come attore, e poi una volta regalata la laurea a mia madre, proprio il foglio di carta che lei si è appesa in camera, ho iniziato definitivamente a fare l'attore. Non so mai quando è che scatta qualcosa dentro per cui di botto alcuni argomenti ti interessano più di altri. Lessi il libro di Safran Foer, Se niente importa, e lì mi si aprì un mondo, ma non perché mi sconvolsero le informazioni che lui dava nel suo libro, ma perché io quelle informazioni e tutto quel mondo che lui racconta lo conoscevo proprio bene. Quindi in realtà mi ha sconvolto il fatto di guardare finalmente tutto questo mondo da una prospettiva completamente nuova. Sono diventato vegano tipo al secondo capitolo. Il titolo La carne debole mi dà varie suggestioni. Una è quella della tentazione della carne debole, nel senso che appunto c'è anche la gola, per esempio, tra i vizi capitali e anche così della nostra dimensione mortale, della nostra dimensione terrena. Ma penso anche che la carne debole rimandi alla vulnerabilità dei corpi, questi corpi che accomunano noi umani e i nostri fratelli, cugini non umani. Sì, questo secondo aspetto non lo avevo considerato quando scelsi il titolo. Il titolo era più una questione appunto di gola, come hai detto tu, ma anche creare il doppio senso con appunto l'incapacità a resistere alle tentazioni della carne, che siano sensuali o mangerecce. Però poi per me la carne è debole in quanto proprio anello debole della catena alimentare della società moderna, ricca, occidentale. Quindi quando si mangia la carne si pensa che la società sia arrivata ormai a un livello di benessere elevatissimo, ma è proprio quando arrivi a mangiare carne tutti i giorni e stai facendo un passo indietro e stai regredendo. Il progresso non è sempre una cosa positiva, come diceva Pasolini. Cerco di raccontare, di descrivere la storia degli allevamenti intensivi da tutti i punti di vista, quindi non solo quello animalista, perché un po' se si punta troppo il dito sull'etica nei confronti degli animali, secondo me, circoscrivendo il campo solo a questo argomento, a questo punto di vista del problema, non si riesce a essere incisivi, a colpire veramente chi è carnivoro e quindi chi non è animalista. Bisogna spiegare un po' al pubblico la storia, cioè quello che sta dietro gli allevamenti intensivi e tutte le problematiche a livello di esaurimento delle risorse, della deforestazione. Quindi la mia è una vera e propria denuncia sociale, cioè il problema è un problema sociale che riguarda tutti. Quindi mangiare carne è un problema, non è un upgrade nella nostra vita. see I watch all the human complex on my game. Here they sit, watch me. Because they rhythm it, full rhythm it, nice rhythm it, split rhythm it, shit. Cause some of them are bigger than most and them not no old bitch. Cause they cooler than ice, cooler than they not food. Cause they want to contest their rule, why but them just can't do it. Believe they want to tackle, but they want to impress. But they know that they have the color rule, why come in life and direct. Dopo l'Australia e i Carpazi andiamo in Svezia, cioè in Sicilia. Ricorderete forse il circo di Svezia che tempo fa portò in cronaca Monreale per la fuga della tigre Oscar. In una maxi operazione il circo di Svezia è stato sequestrato durante una delle tappe della sua tournée sicula a Carini, in provincia di Palermo, per le pessime condizioni igienico-sanitarie, per i maltrattamenti e gli animali malnutriti e rinchiusi in spazi non idonei e infine per 12 operai che lavoravano in nero. C'è di più, alcuni mezzi del circo sono risultati senza assicurazione e con targhe alterate, ma la cosa peggiore riguardava gli animali, malnutriti con segni di maltrattamento e, secondo quanto riferito, costretti a mangiare alimenti surgelati. È stato accertato che il leone non usciva dalla sua gabbia da oltre 2 anni e i militari hanno trovato una capra viva all'interno di una cassapanca di legno. Verrebbe da dire, sopra la panca la capra campa, dentro la cassapanca la capra, puntini, puntini, puntini. Le irregolarità hanno indotto i militari a procedere al sequestro preventivo di 2 tigri, una del Bengala e una siberiana, un leone, 2 dromedari, un lama, un piccolo cavallo, un pony, 2 asini, 2 cavalli, una capra nana, nonché di alcuni mezzi e strutture in cui venivano trasportati e detenuti gli animali. Per festeggiare il sequestro del circo di Svezia, il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni ci invita a gustare un piatto tradizionale nordico. La Rotfruktsoppa, che non è un mobile Ikea, ma una zuppa svedese di rape e radici. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Oggi una ricetta tanto semplice quanto gustosa. Apparentemente potrebbe non incontrare i nostri gusti, invece questa zuppa svedese di rape e radici vi farà fare un figurone. Ecco la ricetta della Rotfruktsoppa, in versione cruelty free. Gli ingredienti per 4 persone sono una cipolla bianca, uno scalogno, una patata dolce, una patata media, una pastinaca, una rapa piccola, 2 carote, mezzo sedano rapa, una rapa rossa, 1 litro di brodo vegetale, 100 g di panna vegetale, olio extravergine di oliva, sale, pepe bianco, dragoncello e 4 fette di pane. Pulite la cipolla e lo scalogno e affettate. Fate scottare in una pentola con poca acqua e quando questa sarà evaporata, aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e fate rosolare per 5 minuti. Aggiustando di sale e pepe bianco. Intanto pulite tutte le verdure e tagliatele a pezzetti molto piccoli. Vi consiglio di acquistare verdure biologiche in modo da poterne utilizzare anche la buccia, dopo averla lavata accuratamente con l'apposita spazzolina. Aggiungete un po' di dragoncello, anche essiccato va bene, e poi unite tutte le verdure alle cipolle. Fate rosolare qualche minuto, quindi coprite col brodo vegetale e portate a cottura a fuoco lento, lasciando la pentola coperta. Nel frattempo, tagliate il pane a quadretti piccoli. Conditeli con sale, pepe bianco, olio extravergine di oliva e dragoncello e fateli tostare in forno a 180 gradi per 10-15 minuti, fino a quando saranno ben dorati. Quando le verdure saranno cotte, riducete tutto ad una crema con un mixer ad immersione. Se la zuppa dovesse essere troppo densa, potete allungarla con altro brodo o con un poco di latte vegetale. Servite ben calda in una scodella, aggiungete dadini di pane tostati e un pizzico di dragoncello e decorate con un cucchiaio di panna vegetale. If you change your mind, on the first in line, honey I'm still free, take a chance on me. If you need me, let me know and I'll be around. To go when you're feeling down. If you're all alone. Seconda notizione vegan musicale della settimana. Camilluccia cara, indovina in quale film d'animazione c'è un duetto cantato da due artisti vegani? Non sono all'altezza, Giuseppe. Io i cartoni li uso solo per fare i traslochi. Bisogna chiedere ad Agata e Roberta, che sono le nostre collaboratrici esperte. Sicuramente Roberta e Agata avranno visto il film d'animazione. Stevie Wonder e Ariana Grande hanno collaborato per il tema principale della colonna sonora di Sing, uscito il 4 gennaio 2017. Il singolo, che sicuramente molti di noi avranno già ascoltato, si intitola Fate. Sia Stevie Wonder che Ariana Grande sono vegani e quindi ci sentiamo di promuovere questo divertente e piacevole film i cui protagonisti sono animali di animazione. Nessun animale è stato maltrattato durante le riprese di questo film. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. You see the go-getter, she's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold type. I got faith in you, baby. I got faith. Esaurito il tempo a nostra disposizione. La trasmissione Restiamo Animali di questa settimana è conclusa, ma non prima di avere menzionato le voci e le persone che rendono possibile questa produzione radiofonica e che sono quelle di Gianluca Felicetti, Giuseppe Lanino, Gabriele Palloni, Lorenzo Guadagnucci, Giuseppe Coco e la nostra piena fate Camilla Lattanzi. L'appuntamento con la trasmissione Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.